Benvenuti, ben ritrovati a questa serata. Ho il privilegio e la felicità di ospitare un'amica ormai, Ben Pastor. Qualcuno di voi forse l'ha già sentita parlare perché è stata ospite a programmi radiofonici, l'ultima volta credo che è stato diffuso in febbraio. E benvenuta. Grazie. Maria Verbena Volpi Pastor. Allora, iniziamo a chiederti di spiegare un po' come si arriva a Ben Pastor. Ma intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui. Mi ricordo sempre che potreste essere altrove e avete scelto di essere qui, così grazie per quello. Roberto ed io lo apprezziamo. Allora, io mi chiamo Maria Verbena Giuditta Fernanda Carmen Elvira. Scusa? E quindi capisci perché Ben da Verbena è più facile. Erano tutti i nomi dei miei padrini, madrine, Carmen perché erano appassionati di opera, ho sempre detto grazie a Dio non era Rigoletto. E quindi evidentemente il suo protagonista non si può chiamare normalmente, che ne so io, Martin Bora, ma si chiama? Martin Heinz. Wilhelm Friedrich, Douglas Friedrich Wilhelm. Oramai quest'uomo ne sa molto più di me, quindi Martin Heinz Douglas Wilhelm Friedrich von Bora. Niente cocco di meno. Dunque, dovremmo fare questa conferenza, questa presentazione in inglese, perché Ben non scrive in italiano. I romanzi, a partire dal suo primo romanzo nel 1999, Lumen, sono stati scritti in inglese. Allora, mi chiedo, come mai tu studi scienze sociali alla Sapienza di Roma? Come sei arrivata? Come sei arrivata a scrivere romanzi in inglese? Allora, a 24 anni sono andata negli Stati Uniti, ho seguito il mio allora marito e la mia figliuola, quindi ho fatto un'intera vita, un'intera carriera negli... Così, meglio? Sì. Una vita e una carriera negli Stati Uniti e davvero sono diventata anglofona e come sapete la lingua è anche destino, come si parla e come si pensa e viceversa, per questo molto spesso fra l'altro le lotte fratricide sono nei riguardi della lingua, basta vedere la Russia e l'Ucraina, il linguaggio fa una differenza. E quindi avendo cominciato a parlare inglese, avendo trovato che l'inglese in realtà è una lingua estremamente duttile, elegante, breve, concisa, allo stesso tempo ricchissima, e molto spesso si pensa, soprattutto se si conosce l'inglese più corrente e corrivo, anche l'inglese più commerciale, se si vuole, non si pensa alla ricchezza e alla profondità che abbia come lingua. Io la trovo davvero un meraviglioso strumento, molto confacente, e quindi ho cominciato a scrivere, anche perché ovviamente scrivevo saggi che avevano a che fare con la mia carriera accademica, e da allora ho trovato che in realtà si scrive molto bene in inglese, è una lingua che raccomando a chiunque voglia scrivere in realtà. Allora, in America hai insegnato nel Vermont, in Florida, nell'Illinois? No, Florida no, Texas. Florida mi manca. Ok. C'è sempre tempo. Che cosa in particolare hai insegnato? Ma io insegnavo in realtà social sciences, non so bene come definirlo, in realtà sono discipline umanistiche se si vuole, ma molto spesso i miei studenti erano un corso di masters, quindi erano già laureati, si stavano specializzando in cose molto spesso interdisciplinari, così che avevo, che so, studenti che studiavano psicologia e letteratura, oppure storia e storia della lotta di genere, per esempio. Quindi c'erano delle combinazioni molto interessanti e siccome c'era una triangolazione tra studente o studentessa, un membro di facoltà interno e un membro specialistico esterno, si creavano delle sinergie veramente molto interessanti. Ed è stato questo in particolare a Norwich University è stato sicuramente uno dei più innovativi programmi. Era nato a Cambridge, nel Massachusetts, alla fine degli anni 60, quindi molto sull'onda lunga del femminismo, anche di un certo impegno politico, ed è stata veramente una stagione ricchissima che peraltro si è esaurita ormai negli ultimi 2 o 3 anni, si è molto normalizzata. tutte le passioni che una volta agitavano noi e i nostri studenti si sono in realtà forse non in noi allentate, ma sicuramente negli studenti in generale. Allora, per tornare ai libri, alla letteratura, dicevo prima il personaggio principale, quello di cui ci occuperemo in gran parte in questa ora che abbiamo a disposizione è Martin Bora. Vedremo subito di chi si tratta, ma non è l'unico personaggio creato da Ben Pastor, c'è un altro che è legato ai tuoi studi, perché l'indirizzo della la laurea in lettere che hai fatto alla Sapienza era in archeologia, e quindi torniamo a un altro personaggio che però è difficilmente raggiungibile, anche perché purtroppo la casa editrice che aveva pubblicato questi libri non esiste più. È vero. Elio Sparziano, ci vuoi dire due parole su di lui, che così completiamo un quadro? Ma io credo che una cosa interessante sia di pensare al passato, è uno dei miei momenti preferiti il passato, più invecchio più naturalmente ho più passato, quindi sai, è un fatto anche di arricchimento personale, il proprio passato e il passato in generale. Pensiamo spesso al passato come cosa che non ci appartenga. In realtà il passato è anche un luogo che si può visitare, e credo che ogni volta che si costruisce anche l'antichità più remota come un luogo nostro ma altrove, si ha forse più simpatia per cose che sono, ci hanno preceduto anche di migliaia di anni. Fra l'altro il IV secolo in cui vive Elio Sparziano, che è soldato ma anche storico ed è realmente esistito, è uno degli autori di una poco nota ma veramente molto importante polibiografia degli ultimi imperatori, che fu scritta coralmente nel IV secolo d.C., quindi oramai 1600 anni fa. Ed è peraltro un uomo abbastanza dei nostri tempi. Noi viviamo davvero alla fine dei tempi. This is the end of times. E nulla sarà più dal 2011. Noi ci siamo detti negli Stati Uniti: nothing will be the same. Cioè, dopo le Torri Gemelle, nulla è stato più lo stesso. Ma non per le Torri Gemelle, perché in realtà siamo davvero alla fine di un'epoca e all'inizio di altra, che peraltro abbiamo davanti a noi, ma non riconoscibile e non afferrabile. E così era il mondo del IV secolo, la fine dell'antichità come la comprendiamo e gli inizi dell'Europa come la conosciamo. Quindi un periodo di fermento immenso, di movimento di milioni di esseri umani che si spostavano entro i confini di quella che poi conosceremo come Europa. Quindi con un esercito multinazionale come quello romano, in cui chiunque è venuto da altrove può fare carriera, un po' come si diceva una volta dell'esercito inglese, poi si è detto in realtà anche dell'esercito americano, è ancora vero tutt'oggi. Quindi tutto in realtà molto contemporaneo, ma la cosa che affascina me è la fine di un tempo e l'inizio di un altro, un momento liminale, è come essere in bilico, e noi tutti in realtà siamo mondialmente in bilico. Non è necessariamente una cattiva cosa, ma essere in bilico non è mai comfortable. A proposito di Götterdämmerung, cioè di crepuscoli, di dei e di epoche, quella di Martin Bora riguarda la Germania nel 1945, quella di Elio Sparziano riguarda la fine dell'Impero Romano, ma c'è un'altra serie che ci riporta all'evento di cui quest'anno ricordiamo il centesimo anniversario, cioè lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, perché l'altra serie di libri sono dedicati proprio a quegli anni, attorno al 13 e il 14. Beh, quello che è delizioso e allo stesso tempo drammatico, molto spesso nella Mitteleuropa della fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, il dramma e la grazia vanno insieme. Cosa molto interessante, Vienna e Praga sicuramente furono luoghi di enorme fervore culturale, politico, economico, artistico, e allo stesso tempo si stavano spengendo le luci, si spengono le luci nel 14 e in realtà non si riaccendono fino al 1989. Quindi è una lunga oscurità che segue questo anno così seminale e che sembrava essere un anno come tutti gli altri. E quella è un'altra delle cose che mi affascinano, come in realtà a volte il grande cambiamento sia dietro l'angolo e noi vediamo soltanto il muro. Ecco, di questa serie che si ambienta nella nel fine impero austro-ungarico. So che probabilmente sarà anche questa ristampata da Sellerio. Dovrebbe essere il periodo giusto, perché insomma è il centenario, quindi sarebbe interessante rivisitare, per così dire, questa, non solo questo impero con l'Aquila bicipite, ma anche questa coppia di investigatori quanto mai diversi, un giovane ufficiale austro-ungarico, aristocratico di buone speranze, e un medico ora famoso, ma nato povero e proletario nel ghetto di Josefov a Praga, quindi è un'interessante combinazione. Spero di sì, perché sono simpatici. Allora, adesso mi devi spiegare una cosa. Come si è sviluppata nella tua mente la figura di Martin Heinz Douglas Wilhelm Friedrich von Bora, che è nato ad Edimburgo? Non c'è la strada e la via, ma sono sicuro che c'è, tu ce l'hai, sì, da qualche parte. L'ambasciata tedesca. È nato l'ambasciata tedesca. L'11 novembre del 1913, a che ora? Ma così per calcolare un po' le 11. Ecco, com'è nata la figura di Bora? Perché la cosa che spiazza moltissimo nella logica assente totalmente della pubblicazione dei libri, sia nella versione originale, quella americana, sia nella versione italiana, è che non si capisce come fai a far stare in piedi una storia in cui già nel primo libro dici delle cose che avverranno soltanto fra molto tempo. Il primo libro, che sono onnisciente, è Lumen, si ambienta nel 1939, dopo l'invasione della Polonia da parte dei nazisti. Poi segue Il Signore delle Cento Ossa, che si precede di un anno. Quindi nel 1938 siamo a Lipsia. È vero. Poi c'è Il Cielo di Stagno, siamo nel 1943 in Unione Sovietica, in Ucraina. Poi c'è La Luna Bugiarda, che è l'ultimo, che siamo ancora nel 43, ma in ora Italia. Ora sono nel 41 a Creta, fai conto. Allora, come costruisci queste storie e che percorso fai fare a Bora? Addirittura, devo dire che il primo libro non è ancora stato ristampato, era durante la guerra spagnola. Sì, nel 37. E Bora indaga sulla morte di Federico García Lorca. Cioè, è una cosa... Allora. Cosa che avrei voluto fare io. Ma io credo che in realtà la cronologia sia anche una finzione. Noi viviamo necessariamente in un continuum di tempo, nasciamo in un certo periodo, ci sviluppiamo. Ma in realtà, se poi andiamo a rivedere le nostre vite sono, non sono così ordinate cronologicamente quanto il calendario ci fa pensare, che ci sono delle cose che accadono nelle nostre vite che ci fanno di volta in volta nascere nuovamente in un modo o nell'altro. Quindi in realtà anche nelle nostre vite, che sia l'innamoramento, la fine dell'innamoramento, la perdita di una persona cara, la perdita della casa, le perdite secondo me sono davvero la curva più alta e più nobile dell'imparare umano, che ogni volta che si perde si impara qualcosa. Come diceva Federico García Lorca, la casa non è una casa finché non ne esce il morto. E credo che sia una grande saggezza. Quindi nelle nostre vite in realtà noi abbiamo nascite e rinascite continue. Quindi questi romanzi che si svolgono cronologicamente in momenti diversi in realtà vanno a cercare di spiegare in una chiave peraltro di investigazione dei momenti nella vita del personaggio in cui qualcosa gli succede che lo rende diverso da ciò che era e anche da ciò che sarà. Allora, c'è un passaggio in questo primo libro, e ricordo che risale al 1999, dove dice: come ero giovane. Ecco cosa penso. Bora, lei si lascerà alle spalle le inchieste penali, si concentrerà sulla carriera militare. Dal canto mio, se voglio fare qualcosa di utile, prima o poi smetterò di fumare tanto. Il nostro incomparabile Schenck continuerà a riprodursi come un coniglio. Che altro c'è da dire? Erano solo illusioni da parte di Novotny, che è uno dei personaggi di Lumen. Nel giro di 3 anni avrebbe fumato più che mai. Schenck sarebbe morto alle porte di Stalingrado prima di veder nascere il suo 6° figlio. E Bor avrebbe perso la sua mano sinistra nello scoppio di una granata partigiana in nord Italia. Sua moglie Dicta avrebbe di lì a poco chiesto e ottenuto un annullamento. Tutti loro avrebbero perso la guerra in maniera più disastrosa di quanto nessuno potesse temere. Ogni talento avrebbe potuto essere e sarebbe stato spazzato via. Quella sera c'erano Schumann, la speranza e la grazia di non sapere. Ecco, in questo paragrafo si capisce che tutta la storia, cioè tutto il futuro di Martin Bora è già scritto. e la nostra demiurga Ben Pastor, hai già fatto tutto il percorso fino al Bora ottantenne. Perché non si deve dire? O anche novantenne. Perché a un certo punto mi aveva rivelato che avrebbe voluto farlo morire. Avrebbe fatto la fine di Arthur Conan Doyle quando ha cercato di far morire Sherlock Holmes. Alle cascate. Letteralmente sommerso da gente feroce, inferocita. È vero, è giustamente inferocita. Ecco, ma non mi hai ancora spiegato quando è nato il personaggio di Bora? Allora, come nascono i figli? Come ti è venuto in mente di prendere uno dei momenti più tragici, una delle figure meno apparentemente attraenti, eroiche? Come si fa a trasformare uno della Wehrmacht nell'eroe positivo di una serie di romanzi? Ma in realtà io credo che nel mondo ognuno di noi, quale che sia la sua educazione, quale che sia il suo lavoro e quali che siano anche le sue fedi religiose e politica, possa essere una di due cose: un decent or indecent human being, una persona decente o indecente, e con questo indico cattiva persona. E quindi in realtà è un falso problema quello di prendere, come è stato definito, secondo me giustamente, l'uomo giusto nell'uniforme sbagliata, ma è anche un falso problema, perché ognuno di noi può essere veramente eroe e santo e giusto nelle condizioni e nelle circostanze più terribili, come può essere ingiusto, omicida e infame nelle più gloriose circostanze. Quindi non era tanto lo scegliere un uniforme, che sicuramente è in visa alla maggior parte di noi. Io in realtà sono cresciuta, mio padre ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, quindi sono cresciuta in un mondo in cui c'erano visibilissimi i segni ancora di quella guerra. Io sono del 50, quindi erano passati solo 5 anni. Quando avevo 10 anni era cosa soltanto di ieri, neanche dell'altro ieri. E quindi era chiaro che nel nostro mondo, il mio nonno era antifascista, quindi aveva sofferto abbastanza. Peraltro il mio zio era stato fascistissimo, come spesso in Italia le famiglie si erano divise lungo linee che non erano chiare, ma che erano piene di passione e di rabbia. E quindi ero curiosa, perché erano quelli di cui non si poteva parlare. E come spesso si fa quando si proibisce qualcosa ai ragazzi, i nostri libri di scuola non ne parlavano. I miei libri di scuola più o meno finivano alla spedizione dei 1860, quindi arrivare alla Prima Guerra Mondiale sembrava già cosa cosmica. E perciò c'era una curiosità anche di sapere cosa fosse successo. Era come guardare attraverso il buco della serratura e vedere cosa c'era che facevano i tuoi genitori che non volevano che tu sapessi. E qui in realtà c'era tutto un vissuto che apparteneva a noi tutti e aveva coinvolto la mia famiglia, come le famiglie di quelli intorno a me, ed era stato ampiamente tragico, ma anche ampiamente interessante. Quindi cercare poi di trovare un modo in cui tutto questo mondo, che era sconvolto e sconvolgente, ma pieno di possibilità andate perdute, perché molto andò perso negli anni 20 e negli anni 30, sia nell'Unione Sovietica che sia nell'Europa occidentale. Fu davvero la tragedia del XX secolo, furono le occasioni perdute, perché c'era un fermento generale che avrebbe potuto portare a grandi cose e portò al disastro. Quindi tutto questo era così interessante, e come trovare una figura che potesse rappresentarlo. Avrei potuto cercare di trovare un ufficiale americano, ma in realtà bisogna anche dire che il soldato americano aveva avuto già abbastanza copertura, gloria e applausi nell'intera filmografia e anche letteratura del dopoguerra. Non sapevo abbastanza sicuramente all'epoca da scegliere un sovietico, anche perché naturalmente c'erano altri grossi pesi ideologici. E avevo scelto un tedesco intanto per il mio feticismo assoluto per gli uniformi. Sicuramente, come diceva Woody Allen, avevano i migliori sarti sul continente. E quindi questa passione inveterata per gli uniformi, unita anche a una curiosità molto meno banale, che è quella di come si fa, ne parlavamo proprio prima durante l'intervista, come si fa a dire no? E l'importanza del dire no. E io più invecchio, più sono convinta che molte cose ci sarebbero risparmiate nella vita, sofferenze, se avessimo detto di no. E no sembra essere sempre costruito a noi ragazzi come una parola negativa, ma in realtà il no è quello che a volte ti salva la vita e a volte ti salva l'anima. E nel caso di Martin Bora, che molte volte dice no, e molte volte rischia di perdere la vita, salva l'anima. Quindi volevo che ci fosse qualcuno nell'uniforme che mi permettesse di fargli dire di no e allo stesso tempo mi permettesse di guardare attraverso quel dannato buco della serratura e vedere se intanto se la luce dentro era accesa. E non necessariamente lo è, a volte l'ho dovuta accendere io, ma anche quello è divertente. Poco fa hai citato Woody Allen, lo faccio anch'io, ricordando che diceva che non riusciva a sopportare che poche note di Wagner perché gli veniva un irresistibile bisogno di invadere la Polonia. Invasa la Polonia in Lumen, i nazisti, ho fatto prima la citazione di quel piccolo passaggio, c'era il nome di Schumann. Ora, Martin Bora è un pianista eccezionale. Suo padre è un direttore d'orchestra di fama mondiale, che aveva conosciuto Strauss, che aveva conosciuto Brahms. Il rapporto, come ti è venuto questo rapporto del tuo protagonista con il mondo musicale? Poi crudelissima, Ben, perché nel libro, nell'ultimo è arrivato, Le Luna Bugiarda, il nostro protagonista perde la mano sinistra, ma neanche la destra, come tutti i pianisti sfigati, tipo Paul Wittgenstein, per cui c'è Ravel che gli scrive un concerto. No, proprio la mano sinistra, non ha neanche un repertorio. No, la mano sinistra è la mano del diavolo, la mano destra è la mano di Dio. Ah. Quindi doveva andarsene alla mano del diavolo, vedi, anche quello ha un suo peso, un suo significato. Ma in realtà io non sono minimamente un eroe mancato, non sono un eroe, ma sono una musicista mancata assolutamente, nel senso che non sono proprio nata musicale, però mi sarebbe davvero piaciuto e in particolare credo che il piano abbia una, non solo una sonorità, ma abbia anche livelli di espressione e anche di difficoltà tecnica che secondo me soltanto affinano la mente. E in buona parte ho sempre pensato che insieme alla matematica, alla disciplina della musica fosse quanto mai utile per sviluppare le capacità intellettive. Quindi per un investigatore, secondo me, suonare, e perfino Sherlock Holmes, si sa, suona il violino, non bene, ma lo suona, e Martin Bora, credo, il piano lo suoni piuttosto bene. Ma l'altro pezzo è anche la relazione col padre. Credo che ognuno di noi abbia avuto o un padre o una madre ingombranti. A volte l'ingombro è dovuto alla loro grandezza, come in questo caso avere un padre morto è importante. Il padre morto è importante come una madre morta è importante, molto, praticamente impossibile a sconfiggere. Se possiamo ancora venire a patti con i nostri genitori vivi e attuali, il genitore defunto, oramai consegnato all'eternità, è molto più forte di noi e non può essere davvero mai contraddetto. Quindi era importante avere questo tipo di rapporto nella stessa cosa che gli interessa. Un musicista, avere un padre morto, grande musicista, crea livelli di difficoltà a un giovane uomo, come noi spesso abbiamo avuto nei confronti, io sicuramente, della generazione che mi precede, che venero per le sue anche tragiche scelte, perché io in realtà ho vissuto in tempi facilissimi e i miei, non dico i miei figli perché mia figlia vive negli Stati Uniti dove le cose sono migliori, ma i nostri figli sicuramente in Italia dove vivo buona parte del tempo adesso non avranno tempi altrettanto facili. Quindi in realtà c'è stata una bolla entro la quale la mia generazione ha potuto vivere e crescere, di cui devo essere molto grata. E quindi mi interessava anche creare questa sua piccola difficoltà con il grande padre defunto, che è come il padre di Amleto, sai. Ogni notte viene lì finché lui non uccide tutti. Un'altra difficoltà che si va a cercare Bora appena può è quella che lo lega al mondo degli ebrei, che è proprio quello che viene distrutto sistematicamente, scientemente dai nazisti. E quindi la sua contrapposizione come ufficiale della Wehrmacht, fedele al giuramento fatto, la sua contrapposizione alla Gestapo, alle SS. In un romanzo salva il suo maestro di pianoforte, Weiss, che scambia con un pianoforte Petrov da concerto. In un altro fa fuggire degli ebrei che stanno per essere deportati a Auschwitz. Ecco, come si spiega? Come arrivi a un Bora, così si verrebbe da dire improbabile, che salva gli ebrei? Beh, non so, perché in realtà ho avuto occasione, un po' per ragioni familiari, un po' per motivi collaterali, ho sposato fra l'altro un militare, sono stata sposata a lui per molti anni, ho vissuto nell'ambiente militare sia italiano che americano e conosco abbastanza bene i soldati e i soldati molto spesso hanno una cattiva stampa, si pensa che il soldato in realtà intanto non sia estremamente intelligente, tanto è vero che si dice in inglese military intelligence is an oxymoron, è un ossimoro parlare di intelligence militare, e poi si pensa che non siano persone di coscienza, ma in realtà non è così. Quindi in realtà il vero soldato sa benissimo quali sono i suoi nemici e ci sono quelli che non sono suoi nemici e sa fare quella tara e quella differenza. Ovviamente farla tra il 40 e il 45 è cosa quanto mai rischiosa, ma non a caso ho scelto una persona che è capace di dire di no anche in realtà al rischio della propria carriera e, come si vede poi nel prosieguo, praticamente al rischio della sua vita. Non ha motivo di vedere gli ebrei o i civili come i suoi nemici sono altri, sono dichiarati. Ci sono molte persone che affiancano spesso Martin Bora nelle sue inchieste. In due libri lo troviamo affiancato da un commissario italiano, Guidi, sì. Poi c'è Padre Maleschi in Lumen. Sì. Che tipo di aiuto è quest'altra persona? Allora, dal punto di vista tecnico si sa, chiunque frequenti i gialli come lettore o come scrittore sa che c'è sempre una certa necessità di dibattere le proprie idee. Quindi molto spesso c'è una squadra investigativa, quella a cui siamo più abituati in realtà, dove ci sono diverse competenze, anche diversi caratteri e diversi tipi di esseri umani che si incontrano e poi si addiviene a una soluzione grazie alla giunta e all'aiuto di tutti. Nel caso di due personaggi, genericamente non è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma c'è una possibilità di discutere non necessariamente del caso, quanto delle cose che sono a monte del caso, perché secondo me qualsiasi investigazione, qualsiasi crimine che diventa la brutalità del caso, che causa perdita di sangue, di vita ed è imperdonabile sotto tutti i punti di vista, in realtà a monte ha ben altre cose. E a mio vedere un investigatore che può essere interessante è quello che di volta in volta si trova a confrontare e la propria oscurità e quello che a monte ha causato il crimine. Nel caso di un prete cattolico ovviamente ci sarà una visione non necessariamente spirituale, ma dogmatica della vita, un gesuita poi. Nel caso di Guidi, che è molto, devo dire, molto italiano, molto più, che dire, pragmatico e molto meno intenzionato a soffrire di quanto non sia Martin Bora, c'è una specie di quotidianità e attenzione al momento. E questo mi permette peraltro di fare vedere come in realtà Martin Bora sia relativamente unico e nella sua vita si distingua dagli altri, perché la sua mente e ancora di più la sua anima funzionano in modo molto diverso. Scusate, nel romanzo Luna Bugiarda, parli proprio di Luna Mendax, c'è una sonata mozartiana, Halt Mond, sonate, inventata di sana pianta. Sì, e c'è però uno strumento che Bora... sbalordito scopre, un Silbermann su cui aveva suonato Mozart. Questa documentazione, cioè, mi interessa tanto quanto immaginare Ben che quando scrive un romanzo ambientato a Creta come quello che ha appena completato, davanti a sé ha la mappa del 1943 di Creta, non si accontenta di una riproduzione. Vero, e anche di Mosca nel 1941. E dell'Ucraina. Sì, gigantesca dell'Ucraina, tutta. Assolutamente. È un formato 1:1? Praticamente. Ma questo fa parte del mestiere, e ognuno di noi che scrive gialli sa bene che ci sono due generi di lettori: ci sono i lettori di gialli che di solito sono esigenti e attenti, e poi ci sono i lettori di gialli storici che sono due volte più esigenti e più attenti. Quindi in realtà ognuno di noi commette degli errori, ma cerca di essere quanto più attento possibile, perché fa parte del mestiere. Se si parla di storia, anche storia con la S minuscola, bisogna portare rispetto a chi questa storia l'ha vissuta. E quindi Mi è venuto in mente a un certo punto, cercavo un'informazione in uno di questi libri, e poi diventa quell'informazione come cercare nei libri di Omero la scena del cavallo di Troia. Non c'è. Allora, come sappiamo che Peter è morto? Il fratellastro del protagonista di Martin Bora muore in Ucraina con il suo aereo, lui era pilota. Come sappiamo di Benedicta, che praticamente scompare, non c'è quasi mai nei romanzi? E allora, questa figura li conosciamo benissimo, da dove saltano fuori? Perché io credo che le persone che più amiamo sono quelle che più costruiamo. La quotidianità in realtà sminuisce praticamente tutti noi. Non a caso si dice molto spesso che la quotidianità uccide più matrimoni di qualsiasi altra cosa, perché è molto difficile essere quotidianamente anche con chi si ama. E quindi davvero i grandi affetti, in questo caso i suoi grandi affetti sono davvero quello del fratello uterino, stessa madre, due padri diversi, e dell'amatissima moglie, è proprio la loro assenza. E credo che García Lorca l'abbia detto tutto quando scrisse il lamento per il suo amatissimo collega, poeta ed amico Sánchez Mejías, il toreador, che morì essendo rientrato dopo molti anni di pensionamento per un'ultima grande lotta col toro e non sopravvisse. E allora Lorca scrisse alcuni dei suoi versi più potenti. A un certo punto parla di cuerpo ausente e anima presente. Cioè il corpo è assente e l'anima è presente, e credo che questo davvero dica tutto, che nella rimembranza, nel ricordo, nell'affetto, gli amori sono sempre più belli quando si ricordano, quando sono lontani. Sembra un nonsense, ma è davvero così, perché in realtà abbiamo la libertà di costruire intorno ad essi uno splendore che forse hanno avuto, ma forse no. Quindi nel caso di Martin Bora, la sua difficile scelta matrimoniale con questa giovane donna apparentemente egoista, ma anche, come dice Martin Bora, che nel giardino dell'Eden anche il serpente ha le sue ragioni. Benedicta è nazista per comodità. Assolutamente, come noi tutti siamo genericamente qualche cosa per comodità. E Benedicta è la seconda figura femminile dei romanzi. Anzi, prima, se mi permetti, visto che ci hai recitato il tuo nome, io ho detto per esteso anche quello di Martin, dico anche quello del fratello. Peter Carrick Franz Wilhelm Edwin Sickingen, nato il 18 giugno 1918, quindi a 5 anni meno. In meno. La prima donna, e che ricorre in tutti i romanzi, ma anche nei racconti, credo, forse senza esclusione, è Remedios. Sì. E hai appena citato Federico García Lorca. Il primo romanzo, storicamente, cioè cronologicamente, della serie di Martin Bora è proprio dedicata alla Spagna, alla guerra di Spagna, alla guerra civile spagnola, dove Bora va volontario. Sì. E si trova ad indagare sulla morte di Federico García Lorca. Allora, prima di tutto, una morte avvenuta dove non avrebbe dovuto morire. E un anno dopo, realtà. Dopo. Sì, è chiaro, Federico García Lorca morì nel 36, non nel 37, e non morì assolutamente in Aragona. Però era una fictio che peraltro viene spiegata, non è soltanto una licenza poetica. Ma Remedios, diciamo così, è quintessenziale. A mio modo di vedere, proprio per quello che dicevo prima, che a volte le cose assenti sono quelle che ci affascinano di più, credo che una donna non completamente fruibile, una donna parzialmente nascosta, una donna quasi irraggiungibile, una donna che appartenga a se stessa, sia davvero molto affascinante, soprattutto per un 23enne. Credo che avere una disponibilità sessuale che però non è disponibilità in altri sensi, non è tutta dell'uomo a cui si dà, sia di un fascino completo. E credo che questa sia un'altra cosa che si sta perdendo, perché io non ho avuto figli maschi, però credo che una volta ci fosse davvero la signora di cui si innamoravano i giovani, il ragazzo che si innamorava della signora, che poteva poi essere quella che gli insegnava i fatti della vita o no, ma era questa grande figura. Ed era questa grande figura in un mondo dove il sesso era circondato da ogni genere di proibizione, quindi era una figura tanto più importante. Poteva benissimo essere una povera prostituta, non doveva essere una signorina come nel caso di Martin Bora, 15 anni, veramente precoce quel ragazzo. Poteva essere chiunque, ma aveva questa importanza, e credo che in un certo senso sia andato scemando nel nostro approccio molto diverso e molto più quotidiano anche con la sessualità, no? Quel tipo di donna di cui si pensa e di cui si sogna, anche perché ti ha insegnato qualcosa. Remedios è una bruja. È una bruja, è una strega, assolutamente. Io amo le streghe, in realtà. E dimmi dell'amore invece per Federico, per Verde che te quiero verde, Federico García Lorca. Come mai diventa uno, il protagonista assente anche questo, sì, del romanzo? A un certo punto, non fosse che tutto il romanzo, la canzone del Cavaliere, il primo della serie di Martin Bora, che sarà ristampato prossimamente, ma che intanto ho avuto il privilegio di aver tra le mani io e la sua copia. Federico García Lorca è un po' come il cadavere che si trova nella Congiura degli Innocenti di Hitchcock, cioè perché viene sotterrato, viene dissotterrato, viene spostato. Ma in realtà questo è abbastanza vero, perché non si sa a tutt'oggi cosa sia successo al corpo del più grande poeta che la Spagna abbia prodotto. Si sa che morì, che fu fucilato in realtà insieme a altre 4-5 persone nel 1936, si sa che fu sepolto. Ma in realtà quando poi hanno esumato quelli che con lui furono fucilati, il corpo di García Lorca non c'era. Quindi la famiglia è sempre stata piuttosto ostile a qualsiasi investigazione. Sono nate leggende di ogni genere, non più tardi di un anno fa, cioè che non è morto davvero, che non è morto lì, che non si sa cosa sia successo, che oramai appartiene alla Spagna ed è dovunque in Spagna. Quindi non era così campata in aria l'idea che non si sapesse dove fosse sepolto. In realtà non lo sappiamo. E in questo libro, La morte, il diavolo e Martin Bora, la figura della bruja, conosciuta da Bora in Spagna, torna attraverso le parole di uomini che l'hanno conosciuta, tra cui un ultraottantenne, Martin Bora. Non dico mai il nome, ma... Non dici mai il nome, ma è lui, si sa. Questo quando viene nel tuo percorso? Quando è che hai deciso? Allora, questo romanzo qua in effetti fu scritto per un meraviglioso giornale, non era esattamente un quotidiano, era un settimanale, ma aveva la forma del quotidiano, che si chiamava The European, ed uscì alla fine degli anni 90, e secondo me era una meravigliosa enterprise europea. Era stampato a Mosca, a Londra e a Parigi, ed era pubblicato in tre lingue. E credo che fosse una grande venture che però non è sopravvissuta a se stessa. E avevano, fra l'altro, avevano un concorso per un racconto che avesse a che fare con l'Europa. E quindi io avevo già un'idea abbastanza chiara di quello che volevo dire, e vinse in realtà il concorso e fu pubblicato ed ebbe una buona visibilità. E quindi la ragione era quella di dire che a volte quello che noi ricordiamo è quello che noi ricordiamo, non quello che era necessariamente, ma la bellezza del ricordo è proprio quella, come la bellezza del ricordo della nostra casa. La casa che amiamo di più è la casa che non abbiamo più. perché ognuno di noi ha una casa che non ha più, e sono pochissime le persone che vivono ancora nella casa dei loro tempi, no? E quindi quelli sono i luoghi deputati al nostro affetto e al nostro ricordo. E così anche Remedios. Nell'ultimo libro, Luna Bugiarda, pubblicato da Sellerio, l'editore ti chiede di scrivere una nota alla fine, dove racconti un po' come nasce il nostro Martin Bora, e si fa il nome di Klaus von Stauffenberg, cioè l'attentatore del 44 a Hitler. Come mai questa vicinanza? Perché la figura di von Stauffenberg? Beh, sicuramente il modello, diciamo, il modello fisico, il modello culturale è un cattolico, un aristocratico, un uomo anche fisicamente molto avvenente, musicista, e con fratelli amatissimi, un paio di fratelli. Quindi c'erano dei motivi strettamente legati alla figura. Ce n'erano di altrettanto buoni, se non superiori, legati alla sua grande dirittura morale. Fu sicuramente un giovane affascinato, ahimè, dalla triste deriva della Germania, ma fu anche uno capace di pagare con la vita amarissimamente il suo tentativo di rovesciare la scacchiera nel 20 luglio del 44. Come si sa, è un attentato che fallì, ma in realtà il mio amore per le rovine mi fa anche amare veramente molto gli eroi che falliscono, perché l'eroe che fallisce è duramente e doppiamente colpito, non solo perché ha perduto, ma che ha perduto non per sé, ma anche per altri. Nei tuoi romanzi ci sono spesso dei personaggi veri, veramente esistiti, non soltanto le figure come Graziani o Mussolini, ma dei personaggi come quello che aiuta nella Venere di Salò Bora a sfuggire alla deportazione in Germania e alla fucilazione. Dolman. Sì. Ma anche Vladimir Prop. Uno dei miei preferiti. C'è un raccontino molto allora, bello. Io di solito sono molto attenta a non usare personaggi reali come protagonisti, perché non posso permettermi di far fare loro cose che posso permettermi di far fare a chi invento di sana pianta. Quindi hanno sempre dei cammei, delle piccole parti, dove peraltro cerco di parlare con le loro stesse parole, quindi di dar loro una credibilità legata anche al rispetto che ho per loro. Vladimir Prop è un grande formalista e in realtà un filosofo del linguaggio. E mi colpì molto, ero giovane allora, quando, semplificando di molto il suo pensiero, disse che in realtà ogni narrativa può essere ridotta a piccoli punti narrativi. L'eroe nasce, deve fare qualcosa, lascia la casa, patisce, muore, torna in vita o diventa re. E dice, di questo si può dire anche del Vangelo, naturalmente essendo molto giovane, è anche vero, nasce, cresce, diventa importante, soffre, risuscita. Quindi diciamo che la parabola dell'eroe, che è poi quella anche di buona parte delle favole, che erano quelle che interessavano Vladimir Prop, era la grande messe delle favole, delle leggende russe. Quindi mi piaceva l'idea di un intellettuale che sa ridurre la realtà a piccoli elementi, che incontra un nemico, quale sicuramente Martin Bora è in Russia, e allo stesso tempo risolvono un caso che sembra essere quanto mai poco importante, la morte di una povera contadina. E in realtà un'altra delle cose che credo distingua Martin Bora è la pietà che ha nei confronti degli esseri umani, cosa che spesso non sembra che si possa riferire a un soldato, ma i soldati sono capaci di enormi tenerezze e di enormi atti di pietà, e credo che anche questo vada riconosciuto. Leggo un piccolo estratto da questa tua nota pubblicata in margine alla Luna Bugiarda. Le tracce del passato che emergono da uno scavo archeologico sono per me come cicatrici o tatuaggi su un corpo umano, segni concreti di una storia mai chiusa in se stessa, mai terminata davvero, anche quando il tempo sembra dissolverla nell'oblio. Da parecchi anni, non a caso, mi interesso del pensiero junghiano, specialmente per quanto si riferisce ad archetipi e simboli, e delle ricerche di Joseph Campbell e James Hillman sulla psicologia, il folklore e la mitologia comparata. Mi interessa molto l'aspetto, il tuo legame con la figura di Carl Gustav Jung, con la grande svizzero. La psicologia analitica di Jung. È un po' un fatto generazionale, credo, durante la mia carriera accademica e anche semplicemente nella mia vita, ho trovato che fra le molte rappresentazioni che si possono avere della realtà, e proprio poco tempo fa parlavo con il mio compagno di come in realtà tutta la nostra vita non è altro che rappresentazione. Noi stessi che siamo qui in realtà non vediamo quello che vediamo, ma costruiamo la nostra esperienza di quello che questa sera e questo ambiente è. Quindi siamo tutti davvero in questo senso poeti, cioè creatori. E credo che una cosa che abbia fatto tra le molte Jung, che mi ha convinto, è la sua lettura che ha a che fare intanto con la, diciamo così, con il modo in cui uomini e donne non solo si completano, è parola veramente molto poca, ma in realtà siano l'un l'altro, e quindi che ci sia questa parte femminile, l'anima nell'uomo e l'animus nella donna, naturalmente l'introversione, l'estroversione e così via. Ma anche il fatto che abbia capito che la parola, credo ancora più acutamente di Freud, abbia capito che la parola è sempre metaforica, che nulla accade a caso e che le parole stesse abbiano dei pesi specifici, importanti. Le parole, quando diciamo che le parole pesano, in realtà, diciamo una grande verità. E Jung l'aveva assolutamente compreso, quando nella sua cura basata sulle parole si rendeva conto che le associazioni che noi facciamo hanno significato, e quindi che tutto è rappresentazione, tutto è metafora, e secondo me nessun altro lo aveva compreso prima in modo così poco dogmatico quanto lui. Il mio affetto per Jung è la sua mancanza di dogma. Nella edizione italiana, americana e tedesca di questo libro il titolo è Caput Mundi, caput come in tedesco, caput, non Roma caput mundi, è quello che si ambienta proprio a Roma, c'è l'episodio della strage di Via Rasella e quindi la conseguenza, la fucilazione dei 335 innocenti alle fosse ardeatine. Mi spieghi perché l'edizione inglese che è appena stata pubblicata si intitola A Dark Song of Blood? Con la copertina, però. Sì, con questa copertina è piuttosto importante. L'editore inglese, che poi va anche in Canada e negli Stati Uniti, mi ha detto che per il pubblico anglofono Caput Mundi non aveva senso. Ma che è il contrario di quello che succede in Harry Potter, perché non l'hanno pubblicato in America come la pietra filosofale, perché gli americani non sanno cosa vuol dire filosofale. Quindi evidentemente una scura canzone del sangue si capisce, Caput Mundi no. Beh, in italiano ovviamente Caput è più comprensibile, Mundi, quindi Caput Mundi, il gioco di parole fra Caput e Caput è più comprensibile. Beh, i tedeschi ci arrivavano, cioè ci sono arrivati, tanto che l'hanno pubblicato come Caput Mundi. Ma mi interessa sapere che tipo di rapporto hanno i tedeschi con i tuoi romanzi. Ma chi lo sa, me lo chiedo davvero, perché sono molto abbottonati. È come se non volessero in realtà parlarne poi tanto. Quindi, non so, quando sono usciti sono andati anche abbastanza bene, non saprei che dire. E dov'è che ti senti più gettonata? Perché credo che per loro sia davvero difficile comunque parlare di quel periodo. Mi diceva qualcuno ultimamente, anzi un mio buon corrispondente e anche advisor militare, che è un generale italiano, mi diceva che appena uscita la versione tedesca di Band of Brothers, quindi forse c'è speranza che comincino a parlare di quel periodo. Dove mi sento più a casa? Sicuramente nei paesi, nonostante il brutto titolo, nei paesi anglofoni, in Italia, ma anche in Spagna, dove Martín Bora piace davvero come tipo di cavaliero e jinete. E la figura di Martín Bora, adesso non mi ricordo se me l'avevi detto alle mille una nota o che cosa, è ricalcata su una figura anche di un attore americano o un paio. Sì, beh, anche tanti probabilmente. In questo senso ha ragione Jung quando dice che noi donne abbiamo delle idee confuse riguardo all'uomo ideale. Mettiamo insieme molti pezzi di uomini ideali, mentre invece gli uomini sanno esattamente quale donna piace loro. Gli occhi di uno, il naso di un altro, eccetera, eccetera. E per esempio? Ma gli occhi sicuramente Montgomery Clift, gli occhi di Montgomery Clift. Nessun occhio al mondo fu mai come il suo. È vero sì o no? L'occhio di Montgomery Clift. Sarebbe la figura perfetta per il cinema. Non ci ha mai pensato nessuno. Sì, ci hanno pensato, ma poi è arrivato di mezzo l'11 settembre, tutte le cose che avevano a che fare con scontri di civiltà, eccetera, eccetera, sono state messe neanche sul fornello di dietro, più indietro. Ho capito, ma sono passati 13 anni. Vero? Non so. Non si riesce. Al momento ancora no, però sono di buone speranze, sarà molto difficile trovare l'attore giusto. Riesumare Montgomery Clift sarebbe tristissima cosa, non credo che si potrebbe. L'ultima domanda, quello che stai scrivendo adesso, che dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno, si ambienta a Creta. A Creta nel 1941, una delle operazioni più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, quella che fece dire ad Adolf Hitler non userò mai più i paracadutisti, la conquista in realtà in circa 10 giorni della munitissima isola di Creta, era in mano agli inglesi e anche ben protetta in realtà dai cretesi stessi, furono sbaragliati come forze da questo gruppo, erano 3 brigate di paracadutisti tedeschi, fu sanguinosissima come vittoria e in realtà è il mondo naturalmente del Minotauro, è il mondo del labirinto, quindi è il momento giusto per entrare nel labirinto e trovare Arianna. E qual è il titolo del libro? Beh, si chiamerà La strada per Itaca. Itaca non è ovviamente un'altra isola, però come dice uno dei personaggi, quando andiamo a casa e sappiamo dov'è casa, quella è sempre Itaca e ogni strada porta Itaca. Spero che gli inglesi non si comportino come hanno fatto nell'altro caso, ma mi viene in mente quella recensione fatta da Umberto Eco nel suo Diario Minimo, dove recensendo la Bibbia dice ma se ne potrebbe fare una serie che andrebbe a ruba perché c'è tutto quello che ama il pubblico di oggi, stupri, massacri, incesti, sì. Ma basterebbe chiamarla I disperati del Mar Rosso. Allora, intanto, assolutamente. Grazie del pastor.